Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, sono le 11.06, è arrivato il nostro momento. In regia oggi abbiamo Valeria Bernardi, in redazione Laura Vanossi, quindi un tris di donne pronti per il nostro sommario. Se il tuo stomaco si lamenta, avrà le sue buone ragioni. Scoprile con noi. Cure speciali per ginocchia, gomiti e talloni. Fai un bel respiro e sintonizzati con la primavera. Crampi, pesantezza, acidità, ma anche bruciore intenso, fitte dolorose o senso di oppressione. Così si lamenta il nostro stomaco, che oggi diventa il protagonista della nostra puntata. Chiamateci subito, il nostro numero verde è già a vostra disposizione, 824 0024. I messaggi come sempre al 349 238 6666. A rispondere alle vostre domande, pronto a fornirvi indicazioni e spiegazioni, è tornato a trovarci il professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna all'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli. Professore, bentornato. Buongiorno a tutti, grazie. Professore, se la parte alta dell'addome, per visualizzarla diciamo quella compresa tra la fine dello sterno e l'ombelico, ci dà fastidio, vuoi perché avvertiamo bruciore, vuoi perché la sentiamo un po' indolenzita, pesante, insomma, il primo pensiero va alla gastrite, un termine ambiguo che piace a dire la verità più a noi che a voi, ma il secondo pensiero va all'ulcera. Noi parleremo di entrambe queste condizioni per individuarne cause, fattori e rimedi. Ma intanto, professore, facciamo chiarezza. Iniziamo da una bella definizione di gastrite e ulcera che metta d'accordo sia noi che voi. Ci proviamo? Beh sì, direi abbastanza facile. Il termine gastrite nasce proprio dall'unione tra stomaco e infiammazione, che è un po' il termine ite che accompagna un po' tutta la medicina, pensiamo all'epatite, alla colite, insomma, sì, tutti questi tipi di flogosi. Allora, la forma più classica è la gastrite, cioè l'infiammazione, che può essere acuta o cronica, che può essere lieve, moderata o molto severa. Diciamo che l'ulcera è un po' l'espressione massima del processo infiammatorio, in cui si perde la parte superficiale dell'epitelio e si crea una vera e propria escavazione. Prima dell'ulcera c'è l'erosione, quindi sono passaggi successivi, e l'ulcera può essere anche in questo caso piccola, semplice o complicata. È ovvio che poi calcoliamo che noi parliamo di gastrite, ma spesso questo è un distretto più ampio, perché colpisce l'esofago, lo stomaco, il duodeno, che è la prima parte dell'intestino. Quindi un po' quando noi parliamo di gastrite diciamo tutto infiammazione niente della parte alta dell'apparato digerente. Poi ci sono tanti ovviamente sottogruppi di gastrite. E noi ne parleremo. Comunque, professore, il mal di stomaco, chiamiamolo genericamente così, può essere causato da fattori diversi. Noi cercheremo di individuarle partendo proprio dalla localizzazione del dolore, dal tipo di dolore che può cambiare, dal momento in cui si manifesta, ad esempio se dopo i pasti o a digiuno. Ne parleremo diffusamente, sicuramente con l'aiuto anche dei nostri ascoltatori che possono intervenire descrivendocelo, ma intanto diamo anche un po' qualche regola di prevenzione. Ci sono dei nemici del nostro stomaco, in cima alla lista chi mettiamo, professore? Beh, calcoli che lo stomaco, poverino, è l'organo principe deputato alla prima digestione degli alimenti, ed è ovvio che lui ha contatto con tante sostanze anche tossiche. È facile per noi pensare immediatamente, ad esempio, a sostanze tossiche come l'alcol, che ovviamente possono danneggiarlo quando prese in quantità inadeguata o se presenta un'infiammazione. Però non dimentichiamoci che lo stomaco può essere colpito da processi infettivi. Il più tipico di tutti, ma credo che ne parleremo, è l'infezione dell'Helicobacter pylori. Certo. Ma tra le altre condizioni, farmaci. Non dimentichiamoci che per me una delle prime cause di infiammazione dello stomaco è l'uso inadeguato di farmaci o l'uso adeguato di farmaci necessari, ma che sono gastrolesivi. Ad esempio, quali sono le categorie di farmaci che più mandano in fiamme il nostro stomaco? Beh, si diciamo dice, prendo talmente tanti farmaci che mi si buca lo stomaco. Calcoli che quasi tutti gli antinfiammatori non steroidei, per farci capire, l'aspirina è il principe di questi, ma quasi tutti i farmaci che noi utilizziamo per il dolore hanno un effetto gastrolesivo. E calcolate che l'effetto gastrolesivo in realtà è dovuto a un processo in cui non entriamo specifico, che però è la base del funzionamento di questi farmaci. Il problema è che se in altri distretti ci protegge dal dolore, ad esempio ci toglie l'emicrania, quando questo processo si attiva nello stomaco, che è un organo complesso, lo può danneggiare, può dare erosioni, ulcere e pertanto dolore e gastrite, che è il sintomo clinico finale. Professore, a proposito di farmaci, Antonio ci scrive: se i farmaci fanno male allo stomaco, prenderli a stomaco pieno può eliminare i danni? Beh, diciamo che in qualche modo sì, perché l'unione tra l'acido gastrico, cioè l'acido prodotto dallo stomaco, e alcuni farmaci aumenta il danno, però dobbiamo stare attenti, perché in qualche modo alcuni farmaci, se presi a stomaco pieno, si può ridurre il loro assorbimento. Quindi nella realtà dei fatti bisogna vedere bene la classe di farmaci che stiamo prendendo. Se possibile il farmaco, soprattutto se gastrolesivo, comunque va preso a stomaco pieno. Però bisogna stare attenti che questo non alteri l'assorbimento del farmaco, per cui è il medico che deve decidere il momento esatto. Allora, se avete dubbi sulla natura del vostro mal di stomaco, se avete magari ricevuto una diagnosi e volete avere delle spiegazioni, delle informazioni aggiuntive, chiamateci, parleremo anche, il professor Gasbarrini l'ha citato, di questo batterio che vive ben nascosto nel digerente della grande maggioranza degli individui, l'Helicobacter pylori. Scovarlo è semplice perché ci sono degli esami che permettono di fare diagnosi, ed eliminarlo è importante perché nel tempo può far danni. Professor Gasbarrini, di questo parleremo approfonditamente, ma due brevi indicazioni sull'Helicobacter? Beh, diciamo che è un batterio estremamente comune, colpisce tra il 30 e il 40% della popolazione italiana, non sempre è tossico, diciamo che esistono dei sottogruppi di Helicobacter pylori tossici, ma non c'è dubbio che è il primo responsabile in assoluto dell'ulcera gastrica e duodenale. Quindi è un batterio che noi dobbiamo avere immediatamente presente, dobbiamo trattarlo, si cura molto bene, e interessante, non dobbiamo dimenticarcelo perché è un fattore di rischio per il cancro dello stomaco, per cui come sempre quando abbiamo a che fare con sostanze che possono aumentare il rischio di cancro, diciamo che le nostre antenne devono essere molto molto alte. 800 24 0024, continuate a chiamarci e a scriverci al 349 238 6666. Il professor Gasbarrini rimane con noi fino alla chiusura della trasmissione, quindi sino a mezzogiorno. Una mela al giorno. Sono tra le parti del corpo più trascurate, ma con l'arrivo della bella stagione è quasi impossibile non metterle in mostra. Parliamo di gomiti, ginocchia e talloni. In linea con noi la dottoressa Pucci Romano. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno, bene, grazie. Specialista in dermatologia e vicepresidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica, un'associazione nata proprio per informare, insegnare ad utilizzare i prodotti che facciano bene alla nostra pelle senza nuocere all'ambiente. Dottoressa Romano, questa è un po' la mission della Skineco, vero? Esatto. Gomiti, ginocchi e talloni, il loro aspetto ruvido penalizza sicuramente l'estetica, insomma non sono belli. Naturalmente questa pelle così spessa e così ruvida nasce con un compito particolare. Esatto, infatti non è un caso, tutte le regioni cutanee sottoposte a stress o ad appoggio, pensiamo per esempio ai talloni che reggono tutto il peso del corpo in qualche modo, hanno bisogno di essere un pochino più spessi e sì, questo li porta già di per sé ad avere un aspetto un po' diverso. Dottoressa Romano, in un certo senso devono un po' essere attrezzati, ma come possiamo migliorare il loro aspetto? Levigare questa pelle che sembra sempre troppo ruvida e poi secca, perché queste sono parti del corpo dove la pelle appare particolarmente desquamata. Che fare? Ma innanzitutto bisogna sempre dargli un'attenzione particolare, perché non è un caso che queste zone possono essere anche la spia di alcune malattie, per esempio la psoriasi si può manifestare quasi esclusivamente in queste zone. Però quando non ci sia nessun problema di malattia, la pelle secca va affrontata con una serie di principi attivi come oli vegetali, scrub leggeri, integrazione con omega 3, omega 6, mangiare molto pesce per esempio può favorire il miglioramento della pelle secca. E poi non dimentichiamoci che c'è anche un atteggiamento costituzionale, cioè ci sono persone che hanno di più degli altri questo problema per un fatto genetico, ma non per questo sono malati. Dottoressa Romano, le nostre nonne consigliavano guanto di crine e olio di mandorla per ammorbidire queste zone. Guardi, un'ottima idea, perché poi di fatto gli oli vegetali sono molto meno tossici di quelli minerali, parliamo dei petrolati, della paraffina, della vasellina, che troppo spesso li troviamo nei componenti delle creme antisecchezza, mentre gli oli vegetali sono molto più compatibili. Però un piccolo piccolo segreto: l'olio serve più che altro a rimuovere le cellule morte, quindi fa quasi da peeling. Perché? Perché un grasso toglie un altro grasso, e poi bisogna integrare con una buona crema. Ecco, quindi dottoressa, noi con l'olio massaggiamo gomiti o ginocchio, anche i talloni, e asportiamo la parte più secca con un massaggio bello intenso. Esatto. Poi laviamo con uno scrub meccanico, come può essere il famoso guanto di crine, c'è qualche cosa oggi in commercio di molto meno aggressivo, però un buon olio vegetale massaggiato con un pugna molto morbida ma leggermente abrasiva può favorire il ricambio, forza un po' il ricambio. Poi andiamo con la crema idratante. Una buona crema idratante, in questo caso la componente vegetale è sempre preferita quella minerale, anche perché oltretutto i principi di derivazione dai petrolati, e questo parlo da vicepresidente Schineco, non sono neanche biodegradabili, quindi noi li abbandoniamo nell'acqua con la doccia, li ributtiamo nell'ambiente. Quindi dottoressa Romano, ci dia un'indicazione, a me mi piace sempre che i miei esperti ci aiutino a leggere l'etichetta, perché è di vero, fronte poi andiamo al supermercato, in profumeria, e lì siamo poi soli. Allora, a questo punto, la crema da scegliere che sia rispettosa del benessere della nostra pelle e dell'ambiente? Non è facile, perché è molto complicato interpretare tutta quella serie di nomi, però petrolatum, paraffina, vasellina non sono degli amici per la pelle, ecco. Grazie. E un po' di sole farà anche molto bene alla secchezza dei gomiti, delle ginocchia, migliorano tantissimo perché aumenta l'idratazione, l'esposizione saggia al sole. E sottolineiamo saggia. Dottoressa Romano, ci sentiremo presto, intanto buona giornata e buon lavoro. Anche a voi tutti, auguri, arrivederci. Pronto soccorso. Stomaco, questo è il tema di oggi, 824 0024, in linea con noi il professor Antonio Gasbarrini. Se il vostro stomaco va in fiamme oppure vi pare stretto in una morsa, ancora trafitto da lame pungenti, o ancora avvertite una sgradevole sensazione di acidità, chiamateci o scriveteci al 349-238-6666. Professore, io penso che l'importante sia distinguere un dolore innocente, fastidioso, per carità, ma non pericoloso, da un sintomo doloroso che invece può essere la spia di qualcosa di più serio. Beh sì, assolutamente. E calcolate che il dolore allo stomaco è un qualcosa che, diciamo, in qualche modo tutti abbiamo accusato almeno qualche volta nella nostra vita, per cui quello che è fondamentale è capire se è il solito dolore che ogni tanto si ripresenta, ad esempio abbiamo abusato di alcolici o di alimenti, abbiamo avuto, diciamo, un periodo di vita molto stressato, e allora diciamo è il solito dolore dello stomaco, o dobbiamo vedere se è un dolore nuovo, e soprattutto quello che dobbiamo stare attenti se si accompagna a quelli che in termine medico si chiamano sintomi d'accompagnamento, cioè se un dolore dello stomaco compare diverso dal solito, molto più forte, può nascondere altre patologie. Non dimentichiamo mai che lo stomaco è in una zona che può essere, diciamo, anche colpita da altri disturbi. Non so, l'uomo di 50 anni, iperteso, che fa una vita molto stressata e ha un violento dolore a livello dello stomaco, sì, questo può essere una gastrite, ma può essere anche una presentazione di un disturbo del cuore. Per cui mai sottovalutare i sintomi di accompagnamento. O se no, una persona che ha dolore allo stomaco da un po' di tempo e comincia ad avere calo di peso e anemia, è ovvio che si deve pensare anche a patologie maggiori. Quindi è un disturbo che in genere nel 90% dei casi è un'espressione di una flogosi, un'infiammazione banale dello stomaco, ma può nascondere anche altre malattie, per cui non va mai sottovalutato. Abbiamo in linea con noi Moreno, ci chiama da Bergamo all'824 0024. Buongiorno Moreno e benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire in sessione. Ci racconti? Sì, volevo chiedere per quanto riguarda l'utilizzo del lansoprazolo, che ne faccio abitualmente uso, con cicli di 1-2 mesi, poi smetto per 15 giorni circa e poi continuo a utilizzarlo, e questo va avanti per più di un anno. Volevo chiedere qual è l'utilizzo corretto del lansoprazolo e per cicli lunghissimi se ci sono delle controindicazioni. Grazie. Moreno, qual è stata la diagnosi del medico che l'ha portato a prescriverle l'utilizzo di questo farmaco? Dopo una gastroscopia hanno rilevato un'infiammazione dello stomaco e del piloro, praticamente che chiude tra lo stomaco e l'esofago, con una gastrite una gastrite, ecco, tutto qui. Grazie Moreno. Professor Gasbarrini. Quello che dice Moreno è estremamente importante, perché lui ha parlato dell'ansoprazolo. L'ansoprazolo è un farmaco che è un inibitore della pompa protonica e blocca la secrezione di acido da parte dello stomaco. È ovvio che quando lo stomaco è infiammato, quando si produce anche acido, è ovvio che sull'infiammazione l'acido aumenta il disturbo, determina dolore. Quindi io bloccando l'acido tolgo il dolore o lo riduco. Però il problema qual è? L'ansoprazolo è un farmaco che ha un effetto molto specifico, cioè blocca la secrezione di acido, ma non capisce perché è stato prodotto l'acido. Quindi nella realtà dei fatti la prima osservazione è: dobbiamo essere assolutamente sicuri che sotto questa gastrite non ci siano altre nox patogene, altri agenti. Cioè io non so che tipo di vita faccia Moreno, ma se Moreno ad esempio è un bevitore inadeguato e uno che fa uso di antinfiammatori e fa un uso eccessivo di antinfiammatori, il rimedio non è dare l'ansoprazolo, è correggere lo stile di vita, farlo bere meno, non fargli prendere antinfiammatori, questo è ovvio. Certo. Se c'è un'infezione ad esempio da Helicobacter pylori e si ritiene che sia una gastrite da Helicobacter, bisogna eliminare l'agente. Cioè diciamo l'uso, quello che fa lui, l'uso si chiama on demand, cioè al bisogno ciclico di l'ansoprazolo, di un inibitore di pompa protonica, deve essere riservato solo a quei casi in cui, eliminate tutte le cause di gastrite, uno a un certo punto, non sapendo cosa fare, il medico dà un farmaco che è meno un sintomatico. Però bisogna stare molto attenti a non usarlo in maniera inadeguata senza aver fatto una diagnosi certa di malattia. Professore, torniamo al dolore, ad alcune situazioni tipo per vedere se e come interpretarle. Ad esempio, questo dolore diffuso al di sopra dell'ombelico, occasionale, che si manifesta durante il pasto, che cosa può essere, professore? Beh, questo è importante, l'osservazione che sia legata ai pasti, perché generalmente le forme secretive acide, anzi, migliorano col pasto mangiando. Quando il dolore si realizza durante il pasto implica che c'è un'infiammazione molto importante, che c'è in qualche modo un'alterazione delle due valvole che permette, la prima, quella separato prima, il piloro, quella che permette l'uscita del cibo dallo stomaco. Se questa valvola è infiammata, ovviamente il dolore può aumentare. Alcune forme di ulcera gastrica possono aumentare durante il pasto. Quindi diciamo che la relazione del dolore coi pasti è estremamente importante per il medico e soprattutto ci indica fare esami più approfonditi. Se invece il dolore è simile a una fitta, quindi riusciamo proprio a localizzare bene il punto in cui abbiamo dolore, avvertiamo spesso questo dolore e si scatena a poca distanza dal pasto, indipendentemente da quello che abbiamo mangiato. Beh, questo è importante perché il dolore a fitta. Calcoliamo, come dicevo prima, che in quella zona del nostro corpo ci sono altri organi. Sì. Un altro di questi è il duodeno, che vi dicevo, è il pezzo di intestino che segue lo stomaco. E ci può essere una duodenite, un'ulcera duodenale, ma lì c'è anche la colecisti. La colecisti è la sacchetta che, diciamo, raccoglie la bile e la svuota, fa svuotare solo durante i pasti. È ovvio che un dolore che compare collegato al pasto a tipo fitta può essere determinato anche dalla presenza di calcoli nella colecisti, che appunto quando la colecisti si svuota viene la fitta dolorosa. Per cui è ovvio che è fondamentale anche qui non dire immediatamente ho dolore qui, quindi una gastrite. Ho dolore qui può essere tante cose. La gastrite è una delle cose, il calcolo della colecisti un'altra, la duodenite un'altra, ma dietro c'è anche il pancreas, che è un altro organo che a volte in determinate malattie può soffrire. Quindi mai fare una diagnosi solo sulla sede anatomica, ma tenere ben presente tutte le possibili possibili organi colpiti e fare una diagnosi assoluta. Cioè l'importante è la diagnosi, prima ancora dei farmaci che si utilizzano. Andiamo nella provincia di Caserta, perché ci aspetta Lello. Lello, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno dottore. Io volevo fare una domanda molto, molto individuale. Allora, io 3-4 anni fa ho fatto la gastroscopia, mi hanno diagnosticato un Helicobacter, ho fatto la cura e dopo 80 giorni andava bene avanti. Sì. Dopo 2-3 mesi ho cominciato ad avere problemi. Mi hanno fatto fare le analisi della PPU e mi hanno visto che non c'era più l'Helicobacter. Però io soffro comunque di stomaco, cioè se mangio un po' più tardi la sera, oppure ho l'acido tutto il giorno molte volte, anche se bevo vino oppure non bevo, bevo mezzo bicchiere o un bicchiere a pasto, però ce l'ho sempre. Il dottore mi ha detto, guarda, prendi l'antra, antra 20 solo nel periodo di cambiamento di stagione, non può essere tutto qui. non lo so che fare. Grazie lei. Professor Gasbarrini, insomma, l'Helicobacter c'era, l'hanno eradicato, sì. Però questo stomaco a Lello dà problemi. No, ma torniamo a un concetto estremamente importante che ha fatto Lello. Guardi, questa è una problematica di almeno per me il 50% delle persone che si sottopongono a terapia che toglie l'Helicobacter. Nella realtà dei fatti, l'Helicobacter pylori è sicuramente responsabile di ulcere e gastrite, ma non è l'unica causa. Lui colpisce, vi dicevo, tra il 30 e il 40% della popolazione italiana. Molte volte il medico cosa fa? Cerca l'Helicobacter, se lo trova lo toglie, ma in realtà non è l'Helicobacter la causa della gastrite di quella persona. Ma allora come quindi, si fa? Allora il concetto è, torniamo indietro, dobbiamo cercare tutte le cause, l'Helicobacter è una di queste, però una volta tolto l'Helicobacter dobbiamo accertarci che la gastrite sia realmente andata via. Un esempio, se un eccesso di bile va nello stomaco, infiamma lo stomaco, quindi si chiama gastrite biliare. Se la persona ha un'alimentazione inadeguata, quella è la motivazione. Se prende farmaci è la motivazione. Se ad esempio, una cosa completamente diversa, l'Helicobacter pylori viene, sta tanti anni, dà una gastrite cronica, determina una gastrite atrofica, cioè dà dei danni permanenti nello stomaco, noi lo togliamo, ma ovviamente i danni che sono stati determinati in quello stomaco restano. Sono permanenti e cronici, restano. Per cui non abbiamo finito la storia, in un piccolo gruppo di persone, anche grande, ma insomma in un gruppo di persone abbiamo eliminato la problematica, ma in molte altre persone non l'abbiamo eliminata e non dobbiamo pensare che aver tolto l'Helicobacter pylori riduce, elimina i sintomi nella grande maggioranza di persone. Andiamo rapidamente prima dei mercati e quindi ad Ancona ci aspetta Franco. Franco, buongiorno, le chiedo di essere rapido nella domanda. Sono rapidissimo, ciao carissimi, prima di tutto. Dunque, io ho capito che il mal di stomaco sta anche nel discorso di alimentazione, quello mi regolo da me, ed è perché dopo ho smesso di fumare, quel nervoso porta quasi sempre questo mal di stomaco. Sì. Ma io quello che non riesco a capire, nelle sere che magari uno stravizia un attimo, che mangio un po' di più, stando supini a letto non succede niente, mi metto di lato, ho acidità. Cioè io ho bisogno che qualcuno me lo dice cos'è. Vediamo se il professor Gasbarrini è capace di dire che cos'è. Professore. Beh no, quello che ha detto Franco è importante. Calcoliamo che lo stomaco in qualche modo è un serbatoio, no? È un po' una bisaccia che raccoglie il cibo ma produce anche acido, bile e altre secrezioni. È ovvio che la nostra posizione anche nel letto può in qualche modo interferire col miscelamento di questi succhi gastrici o biliari. Ad esempio, chi soffre di ernia iatale, esofagea da reflusso, sa che spesso questi sintomi peggiorano dopo mangiato stando stesi, per questo gli suggerisce di camminare, di muoversi, perché in qualche modo c'è un rapporto tra la posizione della persona e quindi anche la secrezione dello stomaco e la modalità di digerire il cibo. Quindi non c'è dubbio che è un'osservazione assolutamente importante da fare al medico e il medico deve contestualizzarla nei sintomi della persona. E poi non dimentichiamoci una cosa, che tutto quello che noi non è che gli organismi, le domande sono validi per tutti. Quello che è valido per una persona è assolutamente non valido per un'altra, per cui è fondamentale non generalizzare e invece individualizzare le osservazioni sulla persona che abbiamo di fronte. L'alimentazione è importantissima. Calcolate che ci sono persone che hanno una dieta prettamente vegetariana, altri prettamente iperproteica. Adesso ci sono tutte queste diete, no? Povere in carboidrati. Bene, il modo in cui mangiamo in qualche modo ha una ripercussione fortissima sulla funzionamento dei nostri organi, fortissima. Eccoci, siamo tornati insieme, oggi parliamo del nostro stomaco, parliamo di gastrite, parliamo di ulcera, di Helicobacter pylori, ma soprattutto cerchiamo di sottolineare l'importanza che, come diceva il professor Gasbarrini, ciascuno di noi è un individuo a sé e quindi se il mal di stomaco non passa bisogna comunque continuare a indagare e cercare la causa. Prima di dare la linea a Serena che ci chiama da Monza, andiamo al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola La salute viene dalla pancia. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con il titolo del libro, il recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Serena, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Senta, adesso le espongo il mio problema. Io sono stata ricoverata in novembre all'ospedale per un'anemia che mi avevano detto. Poi mi hanno fatto la gastroscopia e mi hanno scoperto che avevo un'ulcera angolare sanguinante. lì mi hanno messo le graffettine e poi mi hanno curato col Mepral. Sì. Ecco, adesso io volevo chiedere al dottore se devo rifare la gastroscopia per sapere appunto che cosa devo fare. Certo. Il dopo, vuole avere delle indicazioni sul dopo. Professor Gasbarrini, l'ulcera dà segni di sé sempre con bruciore oppure può essere scoperta all'improvviso? No, l'ulcera può essere anche totalmente asintomatica e, come nel caso della signora, essere scoperta solo perché la persona ha un'anemia sideropenica, cioè ha poco ferro e questo ferro poi si va a ritrovare nelle feci col sangue occulto e fecale. Qui però bisogna, il dopo e il prima anche, sì. Un'ulcera gastrica non è un'eventualità normale, sì. Anche perché le ulcere gastriche, ora ovviamente non voglio allarmare la signora, non è il suo caso, però diciamo che l'ulcera gastrica deve essere sempre messa in diagnosi differenziale col tumore dello stomaco, perché a volte alcuni tumori esordiscono con un'ulcera gastrica, quindi il prima è essere certi che quell'ulcera sia un'ulcera semplice e non sia un'ulcera espressione di una malattia maggiore, e questo si vede solo con le biopsie, quindi con l'istologia. La grande forza della gastroscopia è che fa fare le biopsie. Secondo, studiare la storia clinica della signora, la cosiddetta anamnesi. Se la signora è un'utilizzatrice di antinfiammatori, è possibile che quella sia un'ulcera da farmaci, ma se uno non ha nessun fattore di rischio esordisce con un'ulcera gastrica, questo è un segno che per il quale bisogna avere molta cautela, ancor di più se è un'ulcera sanguinante, quindi un'ulcera profonda che ha colpito un piccolo vaso dello stomaco. E cosa fare nel dopo? Assolutamente questa va ricontrollata con la gastroscopia. Un'ulcera gastrica che si presenta con un sanguinamento deve essere ricontrollata a distanza di 4, 6, 8 settimane, bisogna vedere che sia chiusa, esserne certi, fare ancora biopsie se ci sono dei dubbi. Quindi c'è un prima, un durante e un dopo, ma questo vale sempre in medicina. Per ogni cosa. E mai dimenticare, l'abbiamo già detto ma non bisogna mai finire di dirlo, la personalizzazione, ognuno di noi è diverso, l'anamnesi di ognuno di noi è diversa, i farmaci che prende, la storia è diversa, quindi mai generalizzare e andare sempre sul personale. Volevo aprire una parentesi sugli amici del nostro stomaco. Abbiamo fatto un elenco dei nemici in cui non abbiamo messo lo stress, ma di cui ci occuperemo. Adesso in linea con noi abbiamo il professor Lorenzo Morelli, che è professore di biotecnologia all'Università Cattolica Sacro Cuore, Facoltà di Agraria di Piacenza. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno e grazie per l'invito. Professore, allora, amici del nostro stomaco, ci sono evidenze che dimostrano che l'assunzione di alcuni ceppi di probiotici giova al nostro stomaco. È vero? Sì, sembra proprio di sì. Esistono alcuni studi pubblicati, alcuni studi clinici che indicherebbero una attività, diciamo, di alcuni ceppi di lattobacilli, probiotici, nel ridurre la capacità di infiammazione legata alla presenza di Helicobacter pylori. D'altronde i batteri si sono un po' sempre fatti la guerra fra di loro sempre, e quindi diciamo in questo caso si approfitta. Se ne approfittiamo delle loro inimicizie per ecco. Direi che e oltretutto possono anche, ci sono altri studi ancora più consistenti che dimostrano che nel caso del trattamento con antibiotici per l'eradicazione di Helicobacter, alcuni ceppi di probiotici aiutano a sopportare meglio questo trattamento, che a volte ha degli effetti collaterali un po' pesantini, insomma, non è tollerato benissimo. Non è tollerato da tutti benissimo. Professore, ma come facciamo tra le varie offerte a scovare i ceppi di probiotici che piacciono al nostro stomaco, che lo aiutano a stare bene? Beh, allora, innanzitutto dobbiamo dire che sotto il termine probiotici in realtà vanno ceppi batterici diversi, che ogni ceppo batterico ha la sua attività, quindi non si può prendere un ceppo probiotico per tutte le cose, ogni ceppo ha la sua specificità. Probiotici è come dire vitamine, poi c'è la vitamina A, B, C, D. Esatto, lei ha fatto veramente l'esempio giusto, quindi probiotico è un termine ombrello. Ecco, purtroppo fino al prossimo gennaio 2010, l'unico mezzo che hanno in mano i nostri amici ascoltatori per potersi indirizzare al probiotico giusto, a parte rivolgersi al proprio medico di fiducia, che dovrebbe essere informato in ciò, è di andare direttamente su internet, sui siti pubblici, che però molte volte sono in inglese, tipo Medline, no? Sì. E perché a ogni prodotto probiotico con una dimostrata attività devono corrispondere degli articoli scientifici pubblicati. Perché dico fino a gennaio 2010? Perché esiste un regolamento europeo che quindi è legge anche nel nostro paese in quanto regolamento, che a partire dal gennaio 2010 consentirà alle aziende che abbiano avuto uno speciale permesso da parte dell'autorità europea sulla sicurezza alimentare di porre in etichetta questo tipo di indicazioni. Per il momento non è ancora possibile. Quindi, dal gennaio 2010 basterà leggere l'etichetta. Magnifico. E prima allora dell'etichetta o con il proprio medico su internet, Medline, no, Sì, oppure alcune aziende hanno anche dei siti propri aziendali dove riportano gli articoli scientifici. Non fidiamoci delle affermazioni nude e crude. Andiamo a vedere se ci sono gli articoli pubblicati su riviste cliniche. Professore, grazie per essere stato con noi. È sempre un piacere averla in linea. Grazie. Buona a lei, giornata. Arrivederci, arrivederci. E noi andiamo nella provincia di Lecco. Ci aspetta Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno dottoressa. Io volevo fare una domanda al professore. Sì, professore. Mi dica. Mi è stato diagnosticato una gastrite con Helicobacter, una ernia e due ulcere. Ehi. Lei aveva dolori, immagino, Giuseppe? Oppure no, dolori no? Non avevo, niente. Solo stringimenti e gastrite, diciamo, un po' di bruciore. Acidità. Professore. Qui ci sono due motivi chiaramente responsabili del dolore in quella zona. Il primo, sicuramente le ulcere possono essere causa dell'Helicobacter pylori. Vi ho detto devono essere diagnosticate, in questo caso ho fatto una gastroscopia, l'Helicobacter pylori va curato in maniera efficace e poi va fatto un controllo per accertarsi che le ulcere siano guarite con sì. tempo. Però c'è anche un'altra motivazione del dolore, che è la presenza di ernia iatale. L'ernia iatale è un fattore di rischio per l'esofagite, la cosiddetta esofagite da reflusso, e i sintomi dell'esofagite da reflusso sono simili a quelli della gastrite, soprattutto quando colpisce la cosiddetta bocca dello stomaco, non siamo subito dietro lo sterno. Quindi due motivazioni. Questo è il tipico caso di persona che potrebbe sicuramente guarire le ulcere con la terapia dell'Helicobacter, ma potrebbe non eliminare i sintomi. Potrebbe avere la persistenza di un fastidio. Quindi bisogna, l'ernia purtroppo non sempre si può curare, però ad esempio se la persona è in sovrappeso, basterebbe va portata a un peso normale. Certo. Se ha un'alimentazione inadeguata, va corretta. Però ci sono due malattie contemporaneamente. E prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, saluto un ospite a cui io tengo particolarmente, che è venuto a trovarci, Paolo Endel. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Benvenuto nel Gastrite Club. Finalmente siamo tornati, perché in linea con noi abbiamo Paolo Endel, che può approfittare del nostro esperto, il professor Gasbarrini. Ribuongiorno a Paolo Endel. Buongiorno a voi, buongiorno professore. Intanto io mi chiedevo se le susine verdi possono far venire un po'... Cioè, sono professor Gasbarrini, se io mangio le susine verdi, lo prendo dal titolo dello spettacolo che Paolo Endel sta portando in giro per l'Italia, oggi e domani a Mestre, vero? Sì, oggi e domani a Mestre, ma se posso dire, io credo che le susine verdi, in questo spettacolo che sto facendo, può essere una strada per guarire un po' dalla gastrite, oh, in realtà. Questo magnifico, come i ceppi di probiotici. Perché? Per me sicuramente, intendo, perché io ho cominciato a soffrire di gastrite quando ho cominciato a non capire più che cosa fare della mia vita, quindi qualche decennio fa. E siccome mi piace fare le cose fino in fondo, fatte bene, sono arrivato all'ulcera. Modestamente parlando, ecco, non si è risparmiato nulla, insomma. No, non mi sono fatto mancare nulla, esatto. Il tutto poi, non lo voglio dire per scaramanzia, ma insomma, adesso sono passati una trentina d'anni da quando avevo l'ulcera, e qualche bruciore di stomaco, per carità, va e viene, ma in confronto da quando ho deciso di montare su un palcoscenico e usare il pubblico come cavia, sì, come antiacido, malumori, ecco. Come antiacido in fondo, no? Brava, come antiacido. Ridere, ma sembra una banalità, però è vero, insomma, quando si ride in modo anche diciamo, quando si ride anche delle cose negative della vita, delle cose che non ti piacciono, aiuta. Ogni volta aiuta, insomma, lo stomaco gode. Professor Gasbarrini, sulla componente emotiva, stress del, che in qualche modo mette lo zampino nei problemi di stomaco, non abbiamo parlato. Io aspettavo infatti Paolo Hendel, ma sicuramente il suo peso ce l'ha. Questo non vuol dire che non si devono fare gli esami, ma professore. Paolo Hendel, che è un grande attore, ha un po' riassunto i concetti che sono alla base un po' di tutte le malattie, e tra esse anche la gastrite, cioè una situazione di, diciamo, insoddisfazione, inadeguatezza generale, grande stress psicologico, lavorativo, non c'è dubbio che peggiorano molte malattie, e l'acido gastrico in qualche modo può essere maggiormente secreto durante una situazione di stress, ma questo vale anche per la bile, quindi diciamo gli organi non funzionano bene. Inoltre, per me, il discorso delle susine verdi in qualche modo sono un'espressione di una vita sana, in qualche modo di un mangiare adeguato. La frutta è per tutti quanti, e sicuramente anche per noi medici è espressione di un'alimentazione sana insieme alla verdura. E quindi diciamo che una vita sana dal punto di vista psicologico, il raggiungimento di obiettivi, e in qualche modo io penso che un attore quando fa uno spettacolo si deve preparare, questo implica un'alimentazione corretta, in qualche modo anche un esercizio sportivo. Per chi di noi ha visto uno spettacolo teatrale sa quanto è anche faticoso stare sulla scena per un attore, e poi ovviamente le gratificazioni. Credo che se uno spettacolo poi va bene, non c'è dubbio che l'insieme di queste cose riduce tante malattie, e tra esse anche la gastrite. Assolutamente terapeutico. Paolo Hendel avrà capito che il professor Gasbarrini è uno dei suoi tanti fan, insieme a me. Anche io sono un fan del professore. Basta che stia lontano. No, invece bisogna ascoltare i consigli. L'unica cosa che posso forse dire è che in fondo è un fatto positivo che ti venga a bruciore di stomaco oggi, perché sono tante le occasioni, le cose che vanno storte, le occasioni per scuotere il capo e dire non ci siamo, che se non ti venisse ogni tanto una gastrite vorrebbe dire che sei proprio insensibile, ecco. Quindi è un dato positivo di sensibilità. Campanello d'allarme, qualcosa non torna. Bisogna avere la fortuna di poter cambiare qualcosa, quantomeno nella propria vita, per poter dire reagisco e cerco di voltare pagina. Se non lo si può fare, probabilmente è una difficoltà, è una causa in più del permanere del problema. Insomma, questa lettura della gastrite devo dire che mi piace molto, del dolore allo stomaco, un campanello d'allarme che ci fa sentire che siamo vivi, che partecipiamo, e nello stesso tempo ci indica che è arrivato il momento di cambiare. Intanto, per già i messaggi che stanno arrivando sul programma, sullo spettacolo di Paolo Hendel, l'avevo anticipato che è a Mestre, poi al Benga, poi finalmente arriverà a Torino, alla mia città. Teatro Colosseo a Torino, che è un enorme teatro. Un teatrone. Vogliono youtuber riemperlo. Quindi. Cioè, ma si riempirà. Allora, un in bocca al lupo a Paolo Hendel, un grazie di cuore al professor Gasbarrini, che ci ha condotto con eleganza e chiarezza in questa trasmissione. Professore? Grazie a voi e alla prossima volta. Alla prossima, buona giornata. Prima di salutarvi, saluto Benedetta Spada, che è tornata a trovarci, l'avevamo invitata ieri. Ciao Benedetta. Ciao Nicoletta, salve a tutti. Insegnante di yoga, ieri ci hai insegnato lo yoga delle mani, mudra. Esatto, sì. E allora abbiamo pensato di invitarti a tornare a trovarci per suggerirci un esercizio, una respirazione che ci aiuti un po' a prendere il passo della primavera. Direi uno yoga del sorriso. Esatto, sì, una serie di piccole tecniche che possono essere il nostro piccolo segreto quotidiano per affrontare al meglio questa primavera, perché no, con un po' più di positività. Ne ha parlato anche il New York Times, con lo yoga sta andando molto di moda proprio per vincere la crisi. Da sì, qui esatto. Mi è venuto in mente lo yoga del sorriso. Abbiamo bisogno sì, esatto. Di accettare il cambiamento e di farlo anche con un sorriso, di ritrovare un po' di buon umore. Forse lo yoga ci può aiutare, non lo sappiamo, ma intanto ci portiamo dietro questi semplici esercizi, queste posizioni. Lo yoga, abbiamo già sottolineato, ha il vantaggio di essere portato, di poter ovunque, essere comunque. Portato proprio con sé ovunque, e anche in una piccola stanza possiamo farlo a casa, in ufficio, da soli, in compagnia, per chi viaggia in albergo. Allora Benedetta, iniziamo. Allora, un saluto alla primavera, un esercizio che ci porti un po' di questo rinnovamento, frizzantino. Perché no? Questo esercizio è molto semplice, può anche essere eseguito da coloro che hanno sempre un po' di tensioni all'altezza della zona addominale, dove un po' risiedono le nostre emozioni. È un esercizio che viene chiamato appunto esercizio del bambino. Ci portiamo seduti a terra, distendiamo il tratto dorsale lungo un tappetino oppure appunto una piccola stuoia e percepiamo bene la schiena aderente al suolo. Inspiriamo profondamente, pieghiamo le ginocchia e le portiamo verso l'addome. Intrecciamo le mani alle ginocchia attivando una leggera pressione delle mani verso di noi. Inspiriamo ed espiriamo avvicinando ancora un poco a noi le ginocchia e sostiamo in questa postura per 5 respiri. Mentre eseguiamo l'asana, possiamo mentalmente ripetere una frase che ci accompagnerà per questa giornata. Il cambiamento e il progresso si hanno quando una persona ha rischiato se stessa e ha osato fare esperimenti con la propria vita. Benedetta, grazie, e io ti do appuntamento a domani con un'altra asana, una posizione per imparare questo yoga del buon umore. Allora, appuntamento con Benedetta Spada domani in chiusura di trasmissione, mentre noi ci sentiamo come sempre dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.